ci occupiamo di portare un po' in giro per tutta l'Italia storie che trattano, insomma, vicende di testimoni di giustizia, vicende legate alla nostra mafia, quindi alla 'Ndrangheta, e ci occupiamo di portarlo sia nelle rassegne teatrali e soprattutto facciamo una buona attività all'interno degli istituti scolastici, quindi ci occupiamo di andare per strada a raccontare le verità, a gridare le verità del nostro paese, questo è il nostro scopo. Tra l'altro di vostri lavori avevamo anche proposto in radio Palmina, Amara Terra Mia, un paio di anni fa. Ci racconti di questo nuovo lavoro? Sì, parli di Denuncio Tutti Lei Garofalo. Sì. Allora, Denuncio Tutti Lei Garofalo è un lavoro che nasce un paio di anni fa, debuttato il 19 giugno del 2018. È nata da una suggestione sempre di Giovanni, che aveva voglia di raccontare la storia di Lea. È stata la prima testimone di giustizia calabrese che nel 2009 ha subito, insomma, un triste epilogo. E l'urgenza nasce dal desiderio, appunto, di raccontare un po' qual è la nascita, diciamo, e lo sviluppo anche della 'Ndrangheta, che descriviamo molto bene all'interno dello spettacolo, e quindi andiamo a fondo nelle radici, fino ad arrivare poi a raccontare la storia di Lea e di come Lea abbia deciso di trasferirsi dalla Calabria e andare lontano per trovare, insomma, una pace, trovandosi poi purtroppo immischiata negli stessi problemi all'interno di un clan calabrese. Raccontare, diciamo, sì, la storia dell'Italia, la nostra grande storia, ma non solo, anche il coraggio di una grande donna che si è ribellata a questo contesto per dare una vita migliore, regalare una vita migliore a Denise, sua figlia, quindi una vera lotta, diciamo, proprio la rappresentazione, l'esempio del coraggio di dire di no, di portare avanti l'amore per la propria figlia e soprattutto anche per la propria libertà. C'è stato un grosso lavoro di documentazione. Sì, un grandissimo lavoro di documentazione. Giovanni è solito, prima di iniziare a scrivere un testo e poi propormelo, per iniziare a lavorare proprio alla messa in scena, è solito documentarsi per mesi attraverso atti processuali, interviste, libri, ma anche di incontri, attraverso incontri. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere Marisa Garofalo, che è la sorella, appunto, di Lea, che a seguito di una breve conoscenza via telefono ci ha gentilmente ospitati a casa sua. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata insieme a lei, al marito, al figlio, quindi al nipotino ormai grande di lei, a Rosario, e ci hanno raccontato davvero tantissime cose bellissime a proposito di Lea e di Denise. Quindi queste documentazioni sono in realtà le più belle, le più vive, perché ti permettono di raccontare la verità allo stato puro e a non rifarsi soltanto attraverso articoli di giornale o testi. Quindi il lavoro di ricerca, se vogliamo, è quasi più importante del lavoro di cui poi ci occupiamo dopo, che è quello di propaganda della situazione stessa, quindi è la conoscenza delle reti che in realtà rende importante il collettivo Teatro Prisma e le vicende che andiamo a raccontare. Com'è stato il tuo lavoro in scena? Di grande responsabilità, anche di coraggio, se vogliamo, perché lei racconta la storia di tante donne, in realtà. Quindi il mio è stato un approccio di studio rispetto a quello che Giovanni ha scritto, di medesimazione più che nel personaggio in sé, perché non posso avere la presunzione di dire che impersonifico Lea, assolutamente, anche se parlo attraverso delle sue parole e dei suoi gesti, ma medesimazione rispetto alla grande forza che Lea rappresenta ancora adesso. E quindi è stato un lavoro di responsabilità e di medesimazione da questo punto di vista, di portare avanti la sua figura nel senso più bello del termine, più coraggioso del termine. Questo è quello che una volta Marisa ci ha detto, cioè che ci sono state delle volte quando lei ci ha visto in scena in cui lei sembrava davvero di vedere Lea in carne ed ossa. E quindi questo è stato il mio primo pensiero, ecco, il mio primo obiettivo è stato questo. Nel vostro lavoro di ricerca che impressione avete avuto? È una memoria viva? Dipende, ci sono delle persone che ricordano molto bene, altre che non vogliono ricordare, altre che hanno subito una mala informazione, come capita a volte, e quindi un po' una distorsione. Sì, ci sono delle zone in cui è più viva, delle zone in cui è meno,

tradizionale proprio dagli anni 70, che era Fuori i compagni dalle galere, e la scritta, appunto scritta in maniera contemporanea, era Fuori i compagni barra te dalle galere, non si può vedere una cosa del genere, cioè qual è il senso della frase? Cioè è rispettare il genere maschile e femminile, oppure dire che i compagni devono stare fuori dalle galere? Questa paura delle parole a me fa molta impressione, insomma. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma per il Roma Europa dal 5 al 17 novembre 2019 al Teatro Vittoria con Barzellette, con Ascanio Celestini. Ascanio, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede a teatro. A teatro, ciao, grazie a tutti. Con lo scrittore Giancarlo De Cataldo per parlare dell'appuntamento per Flautissimo a Roma, al Teatro Vascello, mercoledì 6 novembre 2019, Giancarlo De Cataldo in Le illusioni perdute con Rita Marco Tulli al pianoforte. Giancarlo, ben trovato. Buongiorno a voi. Ci racconti di questo esperimento? Stefano Cioffi organizza da tanti anni questo festival Flautissimo e in realtà io avevo già collaborato con lui qualche anno fa in un altro teatro, però con questa formula in cui uno scrittore legge o costruisce attraverso brani di lettura un percorso narrativo accompagnandosi con un musicista, sono un gioco di squadra sostanzialmente, e in passato l'avevo fatto con Gabriele Cohen nel 2016, avevamo lavorato sul mio testo Terroni. Questa volta invece con Rita Marco Tulli abbiamo lavorato sulle illusioni perdute di Balzac, per la verità le illusioni perdute e anche gli splendori e miserie delle cortigiane. Io ho realizzato una specie di collage delle parti più significative di questi due romanzi monumentali, costruendo appunto un percorso narrativo accompagnato direi al 90% dalla musica, che in realtà è un vero e proprio concerto parlato, o se volete una lettura musicata, perché insomma con Rita siamo d'accordo di avere un rapporto continuo con la musica, ecco, non sono degli stacchi musicali, è un tentativo di compenetrazione, un po' come fanno i jazzisti delle improvvisazioni. Com'è nato questo binomio con Rita? Per un suggerimento di Stefano Cioffi, ci siamo conosciuti e diciamo ci siamo piaciuti e quindi proviamo questa avventura. E delle pagine di Balzac cosa hai amato? Le illusioni perdute e Splendori e miserie delle cortigiane sono due romanzi centrali nella Commedia umana. Balzac ha scritto oltre 200 romanzi, tutti incentrati sulle vicende di un gruppo di personaggi nella Parigi dalla Restaurazione fino agli anni 1840-1847, poi Balzac muore giovane nel 1850, quindi questo suo sterminato progetto non può andare avanti, ma Balzac lavorava anticipando tecniche che oggi sono della grande serialità, cioè aveva personaggi che ritornavano, aveva tecniche che noi oggi definiremmo spin-off, cioè la costruzione di un racconto su un personaggio che è marginale in un certo episodio e poi diventa centrale in un altro, sul quale addirittura si costruisce un'intera catena narrativa e via dicendo. In particolare, le illusioni perdute sono la storia di un giovanotto di provincia che approda a Parigi per conquistare la città. Siamo nel 1820-21, quindi proprio nel cuore della Restaurazione, ma ancora l'eco delle vicende napoleoniche vivo e vivace nella società francese, non è che tutti si siano adattati al ritorno dei parrucconi. Lucien è figlio di una donna nobile che però ha sposato un farmacista, cioè si è abbassata come classe sociale, e infatti la sua angoscia è quella di, la sua meta esistenziale, oltre a conquistare Parigi partendo dalla provincia, è quella di riuscire a riottenere il tè. Perché il De significa un'origine nobiliare, allora un'origine nobiliare è la consacrazione che gli permetterà che si aprano le strade del successo e del potere. Ma sono anche gli anni in cui Lucien, cioè il rappresentante di una borghesia rampante, sta alla vigilia, insomma, della prima grande rivoluzione industriale, quindi

e dall'altra parte c'è la poesia, e c'è un piccolo segreto, ma insomma, che per chi è avvezzo, insomma, l'opera di Levi forse non è tale, ma diciamo, molti dei capitoli di Se questo è un uomo e anche della tregua sono in qualche modo hanno il loro, diciamo, la loro luce iniziale in alcune poesie che Levi scrive tornato dal campo di annientamento negli anni 46-47, e quindi sono queste due forme che si intrecciano, no? C'è questa oralità molto potente e la poesia, quindi potrebbe anche essere considerato come un grande poema questo romanzo, ecco. Leggo che si tratta di una condensazione scenica a quattro mani, ecco, su cosa avete voluto centrarla rispetto al testo? Io mettevo, diciamo, la parte più teatrale, no? Domenico Scarpa, che è un grande critico letterario, nonché, diciamo, consulente scientifico del Centro Internazionale di Studi Primo Levi, mi ha aiutato, Domenico, a conservare tutti i registri molteplici che sono dentro questo testo. È un testo, tra l'altro, un romanzo, adesso è una parola che si usa molto in questi anni, ma lo devo dire lo stesso, è un romanzo distopico, cioè nel senso che Levi va avanti e indietro nel tempo durante la narrazione, e questo lo rende molto affascinante, ovviamente. Cioè, quindi la condensazione sostanzialmente è essere riusciti o meno, insomma, a mantenere questi famosi registri presenti nel testo. Cioè, lui a volte si rivolge a noi, a volte in qualche modo sono riflessioni filosofiche, a volte è un campo in diretta con quello che accade, no? A volte lui torna indietro quando era più giovane, a volte va avanti, addirittura, a volte ci pone delle domande. E questi diversi registri vanno avvertiti da chi ascolta e anche da chi lo interpreta, ed è un po' il segreto in qualche modo della grande forza comunicativa del testo. Ricordiamo lo spettacolo Se questo è un uomo a Roma, Teatro Argentina, dal 5 al 17 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Walter Malosti, che ne ha curato adattamento e interpretazione. Walter, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. D'accordo, a prestissimo. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica per la settimana teatrale romana. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti. La prima cosa ti dico che questo sabato al Teatro Mongiovino, 18:30, il mestiere più antico del mondo, di Gabriella Pacini con Laura Nardi, Amadio Pinheiro alla regia. Questo lavoro lo abbiamo in archivio. È uno spettacolo piuttosto interessante, legato alle violenze durante il parto, il tipo di pratica che alcune donne sono state costrette a subire, e il mercato antico del mondo, diciamo, come, non come da detto, che è la prostituzione, ma l'ostetricia, che in qualche modo fin dall'inizio dei tempi aiuta le donne a far nascere bambini. Gabriella Pacini è un'ostetrica con una grande esperienza. Sabato 9 novembre alle 18:30 al Teatro Mongiovino, spazio 18B, oltre il muro, Massimo Roberto Beato, Sofia Giappini, Paolo Zielinski portano in scena questo lavoro nell'anno 2089, e che però invece scende fino al 1989, quindi 100 anni dopo, nel centenario della caduta del muro di Berlino, ci ritrova insomma in un nuovo stato di utopia. È una distopia a tutti gli effetti, anche vedete, con la radice della nostra Europa, dal 5 al 17 novembre, lo spazio 18B. Teatro India, 8-10 novembre, La Casa Bianca, la drammaturgia e la regia di Marta Gilmore con Armando Iovino, anche in scena 8-10 novembre, appunto, questo lavoro di Isola Teatro, ruota attorno a una vicenda familiare legata alla latitanza di un grande boss della Camorra, quindi sono le dinamiche familiari, le relazioni tra persone, terra e popolo e criminalità, al Teatro India per La Casa Bianca dall'8 al 10 di novembre. Pop of Theater, Bert Brechtstrasse, questo è lo spettacolo di Giancarlo San Martano, che appunto si ispira all'opera teatrale intellettuale di Bertolt Brecht, e ricordo, in difesa del suo pensiero, dal 5 al, questa sera, quindi fino al 10 di novembre. Teatro 2, Girasoli, Giovanni Arezzo e Alicia Sgroi, presento in prima assoluta questo lavoro, è un monologo post mortem in cui Sara M, attrice di teatro, donna sensibile, talentuosa, ha deciso di togliersi la vita e quindi ne parla poi invece dopo, come in un dialogo, in un monologo da dopo la morte, per sapere un po' le motivazioni del suo gesto. Teatro 2 di Roma per questo lavoro Girasoli. Poi abbiamo Al Smith, questo autore britannico che scrive il testo Harrogate e l'interpretazione di Alice Spisa e insieme a Marco Paglia, la regia di Stefano Batti, se ne andrà dal 5 al 17 novembre, quindi da stasera, in scena al Teatro Argo Studio, nella stagione del Teatro del Trastevere. Un uomo, un padre, un marito nel corso di un pomeriggio si trova a confrontarsi con tre donne che rappresentano in qualche modo la rappresentazione carnale della parte più intima di se stesso. Quindi questo è un po' il tema che affronta Harrogate di Al Smith, che vedremo fino al 17 novembre da questa sera al Teatro Argo Studio. Teatro Argentina dal 5 al 17 novembre ci sarà Se questo è un uomo, Primo Levi, portato in scena da Walter Malosti, la voce di Primo Levi, di Se questo uomo, una sorta di monologo ininterrotto, in cui la parola del protagonista in qualche modo restituisce quest'opera immensa che è stato tanto di dolore, di sofferenza, nato dai campi di concentramento, di sterminio di Auschwitz. Questo è quello che Walter Malosti condensa in scena, l'opera di Primo Levi appunto, sarà in scena dunque fino al 17 novembre da questa sera, con soprattutto il video di Luca Brink e Daniele Spanò, che mi piace, fa piacere ricordare, perché si tratta di autori davvero importanti. Quindi Se questo nome di Primo Levi in qualche modo è nella stagione del teatro di Roma, perché appunto è il Teatro Argentina, ma al Teatro India contemporaneamente dal 5 al 10 novembre la nostra vecchia conoscenza Eleonora Danco con il Deversivo porta in scena le avventure di una performer e la sua lotta per la conquista del palcoscenico, quindi un lavoro ispirato alla pittura di Robert Rauschenberg, un atto unico, fulgurante e dissacrante sul teatro e quindi ovviamente sulla vita. Questo è quello che ci sarà in scena Teatro India per interpretazione, scrittura e regia di Eleonora Danco. Sono Umberto, per uno di quelli che è uno spettacolo un po' della settimana, da martedì 5 a domenica 17 novembre, da questa sera, Family Floods in Teatro dell'Usio. Il lavoro di Family Floods è abbastanza irripetibile da spiegarsi, maschere e gesti, un teatro che insomma sviluppa l'emotività attraverso il teatro di figura in maniera decisamente interessante. Compagnia storica appunto che si presenta nella sua scena del Teatro San Umberto da domenica, da martedì 5 da questa sera fino a domenica 17 novembre, quindi per due settimane per questo lavoro. Andiamo anche al Teatro Quarticciolo, dove il 9 e 10 novembre avremo in scena la danza con la coreografia di Francesco Vecchione, Clavos, cui seguirà la coreografia di Francesca Foscarini, che prende il nome di Animale, e saranno due coreografie in appunto dittico. Clavos è la storia di due persone, compagni di vita e di viaggio, che si susseguono in una continuità di passi dall'idea cinematografica, appunto, dell'immaginifica cinematografica, e mentre l'Animale di Francesca Foscarini crea una coreografia plasmando sul danzatore francese Romain Guillon una mappa di segni fisici e poetici che possa evocare il mondo umano e quello animale. Quindi questo 9-10 novembre di questo weekend per il Teatro Biblioteca Quarticciolo. Andiamo anche al Teatro Eliseo questo weekend, perché questa settimana, perché da stasera fino al 17 novembre scena un matrimonio, Ingmar Bergman portato in scena dalla regia di Andrei Koncialovskij. Federico Vanni e Yulia Wysockaja riportano in Italia e a Roma Andrei Koncialovskij, che appunto si occupa della versione teatrale del grande film inizialmente girato per la televisione in 6 episodi di Ingmar Bergman, che uscì nel 1973 invece in versione cinematografica, viene trasportata nella Roma degli anni 60 con questa esplosione di violenza in seguito alla missione del marito di abbandonare la moglie per una studentessa. Questo è quello che segue la regia di Andrei Goncialoschi, per scendere un matrimonio dal 5 novembre al 17. E poi, appunto, questa è la settimana in cui Romeo Europa si apre a Life Kids, ed è dall'8 novembre fino al 24 la rassegna dedicata al Teatro Ragazzi. Invito a andare a vedere l'inizio al Teatro Vascello con Riccardo Nove, Giacomo Costantini di Circo Il Grito, con questo lavoro appunto di circo contemporaneo che si chiama Dall'Alto, venerdì 8, e seguirà poi tutto un bellissimo progetto di tantissimi spettacoli che Roma Europa sta ospitando per aprire un po' su un teatro per ragazzi che a Roma spesso non riesce ad avere una grandissima attenzione, soltanto in poche occasioni. Ma probabilmente lo spettacolo che un po' rappresenta questa settimana romana è sempre dedicato a Roma Europa Festival, ma il debutto in prima assoluta da questa sera fino al 17 novembre per il al Teatro Vittoria, con Barzellette di Ascanio Celestini, che racconta storielle raccolte da un capostazione, storie di viaggiatori sconosciuti che transitano senza lasciare alcuna traccia nella stazione terminale in cui lui lavora. Ed è appunto una sorta di un viaggio attraverso popoli, mestieri, mondi, culture che Ascanio Celestini, come sempre, inserisce nella sua struttura narrativa per parlare un po' del nostro paese, per parlare dell'umanità che abbiamo attorno a noi e in cui viviamo. Dal 5 al 10 novembre per Ascanio Celestini, il 5 al 17 novembre per Ascanio Celestini, questo lavoro al Teatro Vittoria Barzellette, ed è un po' lo spettacolo della settimana dove non possiamo mancare. Simone, t'abbraccio e a martedì prossimo. Ciao a tutti! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.